e all'inmi la Elli e gestisci un lanciano di Yamia 24 mattino. Signori, sono le 7:20 minuti, siamo qui a leggere le notizie dai giornali, la rassegna stampa di 24 mattino. Pronto Peter Pescapè, andiamo a commentare. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Col giornale in tangenziale. Eccoci qua, giovedì 9 marzo, i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, ecco il nuovo Jobs Act per il lavoro autonomo. Repubblica invece, come altri quotidiani, punta su questa flat tax per i ricchi. Fisco, arriva la flat tax per ricchi e manager. Equitalia, c'è la proroga. Così la stampa, tassa da 100.000 euro l'offerta dell'Italia agli stranieri ricchi. L'apertura del Corriere della Sera invece è sulla politica. Caso Lotti, scontro nel PD. Renzi dice certo dell'innocenza del ministro, mentre Emiliano attacca Luca, cioè Lotti, dovrebbe sacrificarsi. Per il Fatto Quotidiano, Renzi, gli 80 euro e le altre mance pagate dai poveri. Mentre La Verità, affari di famiglia, da quando suo figlio diventò premier, papà Renzi ha moltiplicato gli introiti. Libero, daremo soldi ai poveri, ma i soldi non ci sono, l'accusa a Poletti che dice aiuteremo i poveri. Tasse, Renzi frena il governo, è invece l'apertura del Messaggero che ieri titolava della possibilità di aumentare l'IVA del 10%, dal 10 al l'IVA quella intermedia, dal 10 al 14%, e l'ex premier boccia l'aumento IVA ed è scettico sul taglio del cuneo fiscale, così giura il Messaggero. Mentre voglio partire dal titolo di apertura di Avvenire, perché è il tema migrazioni che è ancora in primo piano per molti quotidiani. Avvenire rilancia un'intervista al Presidente della Repubblica Mattarella fatta dalla rivista Civiltà Cattolica. Mattarella, in Italia né chiusure né ghetti. Il Presidente della Repubblica parla con Civiltà Cattolica. L'intervista viene riportata, anticipata per la verità, non tutta, pagina 5 di Avvenire. Cosa dice riguardo agli immigrati e alle migrazioni? Dice Mattarella, nel 2015 vi sono stati tra gli europei più morti che nuovi nati. In alcuni paesi africani e asiatici l'età media è tra i 18 e i 20 anni. In più i mezzi di comunicazione di oggi offrono una conoscenza immediata e reale delle condizioni di vita dei diversi continenti. Insomma, quello migratorio è un fenomeno che non è possibile rimuovere. Occorre anzitutto distinguere tra profughi e migranti per soli motivi economici, che meritano comunque rispetto anch'essi, perché sono spesso persone che fuggono da condizioni di sopravvivenza insostenibili. E dice Mattarella, ora accoglienza e non ghetti. Proprio nel giorno in cui all'Italia arriva l'ennesima bacchettata per la incapacità di gestione, soprattutto la lentezza nei rimpatri. Questa è l'accusa numero uno che il Consiglio d'Europa, che ha sede a Strasburgo, ha fatto all'Italia in un dossier. Un dossier in cui si elencano le criticità, come l'inefficienza dell'accoglienza, l'inefficienza delle procedure di identificazione, l'inefficienza e la lentezza della gestione dei rimpatri. È un rapporto firmato da Thomas Bocek, rappresentante speciale per le migrazioni e rifugiati del segretario generale del Consiglio d'Europa. È quel rapporto a cui Gentiloni, di fatto premier italiano, ha risposto neanche Mago Merlino risolve questo problema. Su questo tema il ministro all'interno Marco Minniti, che non ha mai rilasciato un'intervista ufficiale per ora, fa un colloquio con Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. Sono a pagina 13 del Corriere. Migranti, presto un summit a Roma per creare centri di controllo in Africa. Il ministro dell'Interno dice al Corriere della Sera in questo colloquio, partendo dall'ISIS che sta perdendo a Mosul, sta perdendo terreno a Mosul e Raqqa, e quindi in Iraq e in Siria, e aggiunge: non è escluso che i militanti in fuga non possano unirsi alle rotte dei migranti. Questa è anche la preoccupazione di Minniti, che ne ha un'altra, dice: salvare l'unità europea e la stabilità delle nostre democrazie sviluppate dal dopoguerra a oggi. Ebbene, come fare dunque? Lui, definito da Cremonesi un vecchio militante comunista attento alle questioni umanitarie, per esempio a suo dire la politica del governo ungherese in materia è deleteria, contrasta con i principi comunitari europei, ma è uno anche Minniti che trova il plauso delle destre quando parla di sicurezza, della necessità di regolare i flussi. Il Minniti pensiero è questo: non è assolutamente possibile continuare a ricevere chiunque sbarchi illegalmente sulle nostre coste senza imporre alcun criterio di accoglienza. La prima prerogativa della sovranità è quella del controllo dei propri confini. L'anarchia degli arrivi e il non coordinamento a Bruxelles ha invece contribuito alla Brexit, alimenta la Le Pen in Francia, porta acqua al mulino dei neonazisti in Germania, causa il malcontento populista in Italia. Il paradosso dell'Europa è che più sarà passiva, oppure più prevarranno le demagogie delle frontiere aperte a tutti e più è destinata a implodere. Morale, abbiamo creato un paradiso di benessere, democrazia e prosperità, tanto che tutti vogliono venirci a vivere. Se non lo difendiamo, lo perderemo. Questa è la linea di Minniti. E poi fare un summit appunto per discutere a Roma con Italia, Germania, Francia in prima fila insieme ai paesi del Nord Africa per gestire la crisi dei migranti con centri di selezione e controllo. Sarà una linea che passerà? Beh, mi sembra comunque una linea corretta, quella soprattutto della difesa di un qualcosa che abbiamo costruito nei decenni e che rischiamo di perdere. Allora, saltiamo su un altro tema. Oggi Repubblica, con Emanuele Lauria, fa un conto, è un dossier, dell'utilizzo degli aerei blu, definiamoli così, gli aerei di Stato, da parte dei membri del governo. Sapete chi è in testa con il top di, come numero di volte che ha usufruito di un volo di Stato? Angelino Alfano, prima ministro dell'Interno, ora ministro degli Esteri. Il primato di Alfano, ecco i viaggi dei ministri. Il titolare degli Esteri è sottoposto a protezione 1 e ha usato 68 volte, scrive Lauria su Repubblica, pagina 6, l'aereo di Stato. Certo, su 68 volte ci sono state varie occasioni, 27 per la precisione, in cui è tornato in Sicilia in giorni in cui non c'erano impegni pubblici. È tornato a casa con l'aereo di Stato? Questa è la domanda che si pone Repubblica riguardo Alfano. Al secondo posto è il ministro della difesa, è Gentiloni, che ha usato il volo di Stato 43 volte, poi al terzo posto la ministra della difesa Roberta Pinotti 31, al quarto posto il ministro Claudio De Vincenti, titolare della coesione territoriale, che si è spostato 20 volte, poi Orlando 12, Calenda 11, vabbè, insomma tutta la classifica e l'utilizzo degli aerei, cosiddetti aerei blu, su Repubblica. Due articoli invece di denuncia. Il primo, il Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, che riprende in realtà una vicenda apparsa sul Giornale dell'Arte a firma Silvia Mazza, racconta un altro scandalo italiano legato a uno dei beni culturali più preziosi dell'Italia, i bronzi di Riace. I sensori high-tech per sorvegliare i bronzi di Riace pagati e mai usati. È una pagina intera, pagina 21. Gracilissimi, delicatissimi, fragilissimi. Così sono stati definiti i bronzi di Riace, per questo è stata messa tutta una struttura molto sofisticata, anche molto costosa, un insieme formidabile di controlli, di sensori per controllare la temperatura, l'umidità, tutto trasmesso in via tecnologica a un server che controlla la situazione e sarà consultabile anche da remoto per controllare lo stato di salute dei bronzi di Riace. La denuncia è questo: da 3 anni questi sistemi, questi sensori sono praticamente fuori uso e inutilizzati. Questo sul Corriere della Sera, lo trovate a pagina 21. E poi l'articolo che mi fa pinzare della giornata, ve la ricordate, la famosa annosa questione del Capodanno di Roma con tutti i vigili malati, vicenda passate ormai quanti, 2 anni, 3 anni, era il 2014, tra il 2014 e il 2015. Niente. Come si diceva in Italia, tanto non pagherà nessuno, tanto... ragazzi, 767 vigili malati a Capodanno, per i giudici è tutto normale. Roberta Catania racconta su Libero che l'ultima vicenda riguarda altre archiviazioni, l'ennesime per assenza di massa dei vigili romani nel Capodanno 2014, perché ieri il GIP del Tribunale di Roma, Cinzia Parasporto, ha chiuso il procedimento relativo a 16 medici, quelli accusati di falso ideologico per aver firmato certificati ai vigili che non si presentarono in servizio quella notte. Insieme a quelle dei medici è stata archiviata anche la posizione di 3 vigili urbani accusati di istigazione al reato perché attraverso il gruppo Facebook Solo Polizia Locale di Roma Capitale avevano suggerito ai colleghi di donare il sangue il mattino del 31 dicembre in modo da poter avere così 2 giorni di riposo e saltare il turno nella notte di San Silvestro. Nei confronti di questi vigili anche era scattato il sequestro dei computer, avviato una rogatoria negli Stati Uniti per acquisire dati del gruppo Facebook, ma la rogatoria non aveva avuto successo. I post pubblicati non erano stati potuti mettere a corredo degli atti d'accusa. Tutto archiviato. Epidemia, i vigili non hanno pagato, i medici non pagano e avanti così. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Sandro Milan, l'Oppa dell'informazione. Oppa, oppa, oppa. Urca ragazzi. Tutto a posto? Tutto a posto lì in quel di non lo so? Va bene, continuate a mandare le vostre sigle audio via WhatsApp al 349-238-6666. Noi ne facciamo un archivio molto potente, in alcuni casi segnaliamo i servizi sociali, in alcuni casi che magari hanno bisogno di un accompagnamento quotidiano, ma insomma facciamo anche questo, abbiamo un'utilità sociale, voi non credete. Allora... dobbiamo parlare di questa proposta della tassa piatta, no? La flat tax, per attirare i ricconi, i paperoni, i Peter Bescapè, quelli che hanno residenze all'estero, il nostro alpino, che hanno residenze all'estero dove guadagnano trilioni alla paperone dei paperoni. Allora, qual è la proposta in concreto? Cari ricchi, cari paperone dei paperoni, quelli che guadagnano davvero milioni e milioni e milioni, se venite in Italia vi faremo pagare per 15 anni una tassa da 100.000 euro secca, non ci interessa quanto guadagnate, 100.000 euro, pam, ci accontentiamo di questo. Voi venite qui, magari portate anche le vostre attività qui, questo è un po' il senso, e allora c'è il gran dibattito sui giornali per questa uscita. Leggo per esempio pagina 4 e 5 della Stampa. Lasciate che i ricchi vengano a me. L'Italia si dà una legge a tira paperoni per convincere gli stranieri più facoltosi a stabilire qui la residenza, a pagare le tasse e a consumare il loro reddito dentro ai nostri confini. Il momento è anche studiato bene, approfittiamo del nervosismo che regna a Londra tra gli sceicchi del petrolio, gli oligarchi russi, gli altri nababbi preoccupati dalla Brexit. Diversi paesi sono impegnati da anni a fare da calamita ai ricchi. La novità, operativa da subito, è stata introdotta nell'ultima legge di bilancio. È una flat tax, un'imposta fissa per i paperoni. Se verranno a abitare in Italia, ai ricchi basterà pagare un forfè di 100.000 euro l'anno. Attenzione, c'è anche la clausola antifurbetti. Per evitare che alcuni italiani ricconi vadano all'estero e rientrino immediatamente per pagare solo 100.000, bisogna in questa condizione dimostrare di aver pagato almeno nei 9 degli ultimi 10 anni le tasse all'estero, bisogna insomma essere davvero dei residenti all'estero. Fisco, anche l'Italia diventa paradiso per gli stranieri ricchi, e c'è l'intervista a Santo Versace sulla Stampa che dice una logica giusta, attrarre ricchezza porta vantaggi a tutti. C'è l'intervista a Marco Rizzo, che invece è il segretario del Partito Comunista, sì, esiste ancora così, comunista. Questo è socialismo per chi ha tanti soldi, è un aiuto ai furbetti, dice Marco Rizzo. Il dibattito è lanciato. Comunque la pensiate, ecco qui, c'è il commento anche di Giovanni Parente in prima pagina del Sole 24 Ore, il forfè per attirare i paperoni, questa imposta da 100.000 euro. Vedremo, ne discuteremo magari anche più tardi, sentiremo cosa ne pensa anche Oscar Giannino. Oh, a proposito di economia, ieri trionfante il ministro Poletti ha detto daremo soldi ai poveri. C'è da dire che facendo un po' tutti i calcoli, li fa per esempio Carlo Di Foggia oggi sul Fatto Quotidiano a pagina 5, l'ottimismo di Poletti viene un po' intaccato da questi calcoli di Carlo Di Foggia. Già ieri nell'intervista di Repubblica a Poletti si diceva servirebbero 7 miliardi, non la dotazione che secondo il ministro arriva attorno ai 2 miliardi, secondo Repubblica arrivava a 1,6 miliardi sufficienti per aiutare 400.000 famiglie, insomma una dotazione ridotta. Poi lì bisogna sempre vedere, c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi vede il bicchiere mezzo vuoto, cioè chi dice come il ministro è la prima volta che si fa un provvedimento del genere, certo non coprirà tutti, e c'è chi dice bisogna coprire tutti. Comunque la stangata su disabili e poveri per coprire i bonus e le mance, questa è l'impostazione del Fatto Quotidiano, cioè da una parte si taglia le regioni a sforbiciare, poi le regioni sono sui fondi sociali e dall'altra parte invece si dice diamo i soldi ai poveri. Tra l'altro il Fatto Quotidiano dice la cifra del 2018 è appunto di 1,6 miliardi, ma quest'anno ci sono solo 1,15 miliardi a disposizione. E invece per coprire il 1.600.000 nuclei familiari, non i 400.000, ma il 1.600.000 nuclei familiari in povertà assoluta, servirebbero 7 miliardi e non 1,15 o 2 miliardi che dica il ministro, ma ne mancano altri. Va bene, guerra di cifre anche sulla lotta ai poveri. Guerra anche politica su questa inchiesta che continua alla Consip, che coinvolge Tiziano Renzi, papà di Matteo Renzi, indagato. Ieri Renzi è andato porta a porta da Bruno Vespa. Oggi Emiliano critica dicendo in un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Monica Guerzoni a pagina 3, Luca Lotti, ministro dello sport, se si ritiene che la situazione sia talmente grave da sacrificare il gruppo, il singolo deve sacrificarsi. Eccola qui l'accusa di Emiliano, il quadro politico è desolante. Luca, cioè Lotti, dovrebbe sacrificarsi. E poi Matteo, giuri sul programma, così non cederà alle lobby. Ma quali lobby? Accuse generiche, Emiliano. Parlo di banche, petrolieri, imprenditori in genere. Quando si costituiscono meccanismi come quelli che stanno venendo fuori, a prescindere dalle questioni penali, il quadro è desolante. Il quadro desolante è quello che dell'inchiesta che vede coinvolto un papà Renzi che al giorno rilascia qualche dichiarazione, anche se fa la solita premessa non parlo con nessuno, travisate tutto, tanto qualunque cosa dica è sempre peggio, inventate le cose. Ma lei è vero che parte va a Međugorje? Non ho intenzione di dire cosa farò. L'unica cosa che dice al giorno a Ilaria Ulivelli è venite il 16 marzo in tribunale a Firenze perché ho querelato Travaglio e il Fatto Quotidiano, l'udienza credo sia pubblica, ho chiesto un risarcimento danni da 300.000 euro e parlerò quel giorno. Parla invece il sindaco di Rignano sull'Arno, il paese dei Renzi. Il sindaco, intervistato da Giacomo Amadori per La Verità a pagina 2, si chiama Daniele Lorenzini. Ed è un sindaco che è molto vicino a Tiziano Renzi, tanto che è il medico di famiglia, ma che ultimamente, negli ultimi giorni, fa sapere Tiziano Renzi mi sta facendo una guerra politica, ufficialmente perché mi voglio ricandidare a sindaco senza il simbolo del PD ma con una lista civica. In realtà il timore è che la guerra politica che gli sta facendo il papà di Renzi derivi dal fatto che Daniele Lorenzini due giorni fa ha testimoniato a Napoli nell'inchiesta. E secondo La Verità, Giacomo Amadori ha detto, è vero che lei ha detto che Tiziano Renzi ha incontrato Alfredo Romeo, quell'imprenditore di Napoli, una volta, perché Tiziano Renzi lo smentisce. Io agli inquirenti non ho mai fatto il nome di Romeo, ho sentito solo il generale Saltalamacchia, dire a Tiziano «stai lontano da certe persone», ma non ho mai fatto il nome di Romeo. Sì, ma si parla di un imprenditore di Napoli. Ho sentito parlare di quella persona di Napoli o una roba del genere. L'ho sentito in un'altra occasione quando ho incontrato Tiziano Renzi, che era molto preoccupato e mi ha parlato di una inchiesta di cui a Napoli, di cui era turbato, una fantomatica indagine in cui lui ribadì «io non c'entro nulla», e mi disse «c'è un'indagine a Napoli su una persona che avrò visto una volta, ma io non c'entro niente». Non mi ha mai fatto il nome di Romeo, ma ecco la verità, insomma, cerca di capire se l'ha mai incontrato. E sicuramente, dice il sindaco, Babbo Renzi sapeva dell'indagine a Napoli e ammise di aver incontrato Romeo. Questo è il titolo, forse un po' forzato, non ha detto proprio Romeo, ma un imprenditore o quello di Napoli. Staremo a vedere. Intanto, eccolo qui il nostro Mauro Meazza, l'uomo che sa tutto. Buongiorno. Buongiorno. Quasi tutto, diciamo. Facciamo una professione di modestia, caro Alessandro. Oh, vedo che ti sta interessando molto alla flat tax, alla tassa piatta. Quindi penso ai tuoi patrimoni all'estero. Intenzione di riportare la tua residenza in Italia, quindi ne arguisco, insomma, rispetto a certi paradisi esotici che frequenti. Sì, dal Principato di Seborga vengo qui. Ma vediamo, adesso non so dirti com'è il trattamento per il Principato di Seborga. Io però ti vorrei segnalare due o tre cosucce di una discreta importanza. Innanzitutto il Jobs Act degli autonomi, cioè sai che c'è uno statuto del lavoro autonomo in discussione in Parlamento, oggi atteso il primo voto, quello che poi dovrebbe dare la fisionomia definitiva del provvedimento, ti spieghiamo perché è importante per collaboratori, partite IVA, smart workers. Tu sei uno smart workers. Mi piace, vado in giro a dire così, sono uno smart worker. L'ora a cui ti alzi troppo smart non mi sembri, però lo smart work invece è una cosa che già si applica, qui vengono annunciate delle regolamentazioni. Tutti i particolari, non in cronaca, ma a pagina 2 oggi del Sole 24 Ore. E poi due proroghe importanti. Hai carta e penna, come al solito? Sempre. Oh. Allora, innanzitutto, pagine di finanza e mercati che tu leggerai avidamente. Proroga, la stiamo chiedendo a Bruxelles per le GACS. Cioè quelle garanzie, le garanzie dello Stato che devono servire a smaltire i crediti deteriorati delle banche, tutti i particolari da leggere avidamente, ricordati, avidamente su finanza e mercati. Ma passiamo a una lettura invece da fare in modo religioso, cioè religiosamente, e quindi andiamo all'altra proroga, la sanatoria delle cartelle esattoriali. Sì. Lì si prospetta, come puoi leggere oggi in dettaglio su Norme Tributi, uno slittamento del termine da fine marzo al 21 aprile. Quindi 21 aprile c'è tempo per presentare l'istanza per ottenere cartelle. Non hai capito? Chiedi al Sole. Va bene. Perché da questa mattina un servizio di forum con i nostri esperti, quindi è possibile, digitando appunto la propria domanda, mandando la propria domanda, ottenere delle risposte dai nostri esperti sul proprio, questa settimana, sulla materia delle cartelle esattoriali. Non ti voglio dire niente sulla flat tax, puoi chiedermi qualcosa al bar più tardi, qualche consiglio, ti posso indicare un bravo commercialista. Ti voglio invece segnalare che oggi, essendo giovedì, ci sono le pagine di Casa 24, il Demanio annuncia nuove aste e in ultimo si continua a lavorare alle modifiche ai voucher. Leggi su Norme e Tributi tutte le ultime novità. Forse, restano comprese anche alcune imprese, ma non tutte. Leggeremo e sapremo. Traffico! Alessandro Milan, il travone dell'informazione. Va bene, ci sta tutto, mi sembra. Attenzione perché qua, se partiamo con le rime baciate, ce ne sono alcune di cui una molto scontata. Vedete un attimo di darvi una calmata. Cioè, voi mandate quello che volete, non è che abbiamo adesso licenza di mandare in onda tutto, però... Tutto, però insomma con informazione, vedete un po' voi. Allora, è rispuntato sui giornali Salvatore Buzzi. Ve lo ricordate Salvatore Buzzi, capo del cooperative. E poi ora in carcere si trova a Tolmezzo e ieri nel processo in cui era collegato, in, come dire, dal punto di vista telematico, ha detto Buzzi, ha fatto delle minacce, sono un corruttore, ecco i politici che pagavo. Cioè ha annunciato in un libro, una sorta libro nero, dirò cose che so soltanto io, ci saranno delle sorprese. Questo l'ha detto in aula, presidente, glielo anticipo, ci saranno delle sorprese. Cioè farò i nomi dei politici che ho corrotto, che ho pagato. Questo è il titolo del Messaggero a pagina 7, sotto la dicitura Mafia Capitale, anche Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, il libro nero di Buzzi, dirò i nomi dei politici che prendevano soldi. Bene, attendiamo e cerchiamo di capire che succederà. Oh, su tutti i giornali c'è un conteggio di quello che Libero chiama i costi della casta. Si è andati a spulciare nei redditi dei parlamentari. Il tema è quanto guadagnano. Ebbene, i costi della casta, pagina 11 di Libero, Tommaso Montesano, la politica rende, questo è il titolo, non a tutti, per esempio Augusto Minzolini che guadagnava 524.000 euro è sceso a 113.000 dichiarati. Ma la politica rende, per esempio, due grillini come Luigi Di Maio e Roberto Fico, oppure due del PD come Anna Scani e Khalid Chauchi, che prima del 2013 all'ingresso di Montecitorio denunciavano reddito zero, ora sono passati a 98.000 euro annui, cioè lo stipendio dei parlamentari. Anche Laura Boldrini, che era all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e ora presidente della Camera, terza carica dello Stato, prendeva da 94.000 e salita a 146.000 di stipendio. Insomma, snocciolati tutti i guadagni, come i parlamentari devono fare, cioè devono dichiarare tutto, dalla chienghe a grasso i tanti soldi dei politici. Questo dà motivo anche al giornale di firmare la prima pagina dal titolo Gli stipendi segreti dei grillini. È un dossier fatto, a pagina 2, da un ex collaboratore, definito così, del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Andraghetti, assistente del deputato Paolo Bernini, che poi lo cacciò perché non ero vegano, racconta lui, e che evidentemente o per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, non si sa se dice qualcosa di rabbia o se qualcosa di documentato, ma insomma dice altro che 3.000 euro al mese, i grillini prendono il doppio. Fa questa accusa questo ex collaboratore. Di Maio guadagna più di 7.000 euro, Di Battista 5.462 euro netti. Insomma, la guerra di cifre, vai a capire chi ha ragione oppure no, ci saranno polemiche, eccetera. Comunque potete leggere sul giornale. Questa notizia di cronaca mi ha molto colpito, l'abbiamo sentita anche nel giornale radio, La Stampa dedica una pagina a questo, per carità non c'è la versione dell'azienda, ma il titolo messo così sembra molto, molto secco, molto duro. In fabbrica, dopo il trapianto, viene licenziato in tronco. Succede a un 55enne, si chiama Antonio Forchione, che ha avuto già la tragedia, il calvario di essere passato attraverso un carcinoma epatico e quindi un trapianto di fegato, e riprende a lavorare dopo una lunga degenza, comprensibile, alla Orlicon Graziano di Rivoli. E quando ha varcato i cancelli hanno detto torni a casa, e lo attendeva la lettera di licenziamento con decorrenza immediata dopo 27 anni di lavoro senza una macchia e ad appena 5 anni dalla pensione. Immediato lo sciopero dei colleghi, lo sciopero, l'intervento dei sindacalisti. Lui oggi fa un'intervista, tra l'altro, dicendo sono stato gettato come uno straccio, anche se ho dato 27 anni di vita a questa azienda, mi sono sentito umiliato, e La Stampa dedica una pagina a questo caso. Va bene, non ho qui la Gazzetta, ma signori, il Barcellona ha fatto una remontada di quelle spettacolari. 6-1. Avevano perso 4-0 col Paris Saint-Germain all'andata, dovevano vincere 5-0 o 4-0 per andare ai supplementari, 3-0, poi 3-1 del Paris Saint-Germain. A quel punto servivano altri 3 gol e li hanno fatti 3 gol in 8 minuti finali, di cui l'ultimo al 96esimo. Vabbè, ma spettacolo. Viva il Barcellona, che stravinca la Champions League, che stravinca la Champions League, la squadra più bella del mondo. Allora, speriamo, me lo auguro davvero. In tutto questo, la carta costa, l'articolo più inutile, scovato... Ah, c'è anche un'italiana della Champions League? Vabbè, forza Barcellona. In tutto questo, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, la pagina dedicata dal giorno a tutti i figli contesi nelle star, tra le star. A chi deve andare il figlio di Scarlett Johansson? A chi il figlio di Madonna? A chi il figlio di Tom Cruise? Ma chi se ne frega!